l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Il prezzo che paga ogni italiano per l'inefficienza della logistica e dei trasporti è di circa 700 euro l'anno. Questo è il dato emerso a Cernobbio gli scorsi 12 e 13 ottobre durante il primo forum internazionale di Conftrasporto. L'evento sul lago di Como ha scattato una fotografia del nostro paese dal punto di vista economico, dei trasporti e della mobilità. L'immagine è quella di un'Italia a diverse velocità che perde importanti occasioni per produrre più ricchezza. Secondo il rapporto Problemi e prospettive dei trasporti e della logistica, realizzato dall'ufficio studi Confcommercio in collaborazione con Isfort e presentato al forum, l'Italia è infatti tra i paesi europei che investe meno in infrastrutture e dove è ancora forte la divisione tra nord e sud per quel che riguarda l'efficienza e l'accessibilità. Il tempo complessivo delle operazioni di import-export è qui in Italia doppio o triplo rispetto ai principali paesi europei e manca ancora un sistema adeguato di intermodalità. Di fronte a questi dati, Confcommercio prevede che neanche nel 2016 sarà recuperato il livello di movimentazione delle merci degli anni precedenti alla crisi. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato nella scheda iniziale, l'inefficienza logistica del nostro paese ci costa ogni anno circa 40 miliardi di euro, in pratica 700 euro per ogni italiano, compresi i bambini. Un dato che è emerso nel corso di un incontro che si è svolto all'inizio di questa settimana a Cernobbio, organizzato da Confcommercio, ed in cui si è fatto il punto sulla situazione della mobilità in Italia, delle merci ma anche dei passeggeri. E ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti di oggi. Vi presento il primo, il professor Ennio Cascetta dell'Università Federico II di Napoli, che tra l'altro sarà presto a capo della struttura di missione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Professor Cascetta, cominciamo proprio con la mobilità delle persone, sulla quale l'Italia sconta un ritardo infrastrutturale perlomeno pari a quello delle merci. Lei a Cernobbio ha citato un dato relativo alla rete metropolitana. La sola Madrid, con i suoi oltre 300 chilometri di tracciato, ha praticamente il doppio di tutta la rete metropolitana italiana, che pare a circa 150 chilometri. Come rimediare a questi ritardi? Ma il rimedio non può che prevedere un investimento serio, significativo, continuo nel tempo sui sistemi di trasporto urbano, metropolitano, che le città, di cui le città italiane hanno un disperato bisogno. Lei faceva riferimento prima al costo per cittadino della inefficienza logistica. Ecco, il costo a cittadino della mobilità urbana insostenibile del nostro paese è ancora più alto, è 1.500 euro all'anno. Noi usiamo troppo l'automobile. Pensi che la dotazione di auto per abitante a Roma è di 70 auto per 100 abitanti contro 32 a Madrid e 45 a Parigi. Quindi usiamo troppo l'automobile, troppo poco il trasporto pubblico, troppo poco piedi e bicicletta. E questo è appunto il risultato di una mancanza di investimenti, come dicevamo prima, in metropolitane, in linee tranviarie. Anche qui, volendo fare un paragone con l'estero, Berlino da sola ha il doppio dei chilometri di rete tranviaria di tutte le città italiane messe insieme, quindi scontiamo questi ritardi decennali, pluridecennali di investimento, e quindi il modello di mobilità che si è venuto a creare nelle città italiane è un modello che usa tantissimo l'automobile. Lei pensi che l'80% della ricchezza in Europa si produce nelle città? E la ragione per cui una città è più attrattiva di investimenti esteri, è più attrattiva di menti, è più attrattiva di imprenditori, è la qualità della vita in quella città. E in tutte le ricerche dimostrano che la qualità della vita è uno dei fattori vincenti, certo, per la competitività delle città. Le città italiane hanno il paradosso che sono fra le più belle del mondo, 49 siti UNESCO solamente nelle città italiane, ma sono anche fra le meno vivibili d'Europa. Ecco, passiamo alle merci. 40 miliardi di euro di gap logistico, anche questi pesano sulla competitività del nostro paese. Lei ha lavorato al nuovo piano dei porti e della logistica. Qual è, secondo lei, la ricetta per risolvere questo problema? Ma la ricetta è una ricetta, come dire, che parte innanzitutto dal ritorno a una visione nazionale del tema della portualità. Vede, nel nostro paese ci sono 24 autorità portuali con meccanismi di governance molto vicini alle singole realtà territoriali. Negli altri paesi il ruolo dello Stato nel coordinamento delle politiche, delle scelte è molto più forte. Quindi io penso che in Italia dobbiamo innanzitutto ricostruirci una visione nazionale della portualità, quindi c'è bisogno di fare delle scelte, delle priorità, creare i meccanismi per semplificare moltissimo le procedure doganali, le procedure per gli escavi dei fondali, le procedure per tutta la parte documentale dell'imbarco e dello sbarco delle merci. Noi spendiamo troppi giorni a far carte bollate piuttosto che a far muovere contenitori camion, e quindi diciamo una riforma che punta molto sulla governance, su un raccordo fra politiche nazionali e politiche dei singole autorità portuali raggruppate in sistemi e non in singoli porti, ma una riforma che punta moltissimo sul raccordo intermodale fra i porti, le ferrovie, gli interporti e i retroporti da una parte e le grandi linee di navigazione dall'altro. Ringraziamo il professor Ennio Cascetta dell'Università Federico II di Napoli e nuovo coordinatore tra l'altro della struttura di missione presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Prima di andare avanti con il prossimo ospite, ascoltiamo cosa ha detto ai microfoni di Radio 24 il ministro dei Trasporti del Rio a margine dell'incontro di Cernobbio. Questo è la logistica, una delle inefficienze maggiori. Per questo il governo da un lato sta usando il vecchio piano della logistica per rilanciare su alcuni settori, dall'altro lato ha approvato il piano della portualità della logistica. Il vero problema dell'Italia è la mancanza di interconnessioni. Gli aeroporti non parlano con la ferrovia non parla con le strade, i porti e gli interporti non parlano con le reti ferrate e con le reti stradali. Quindi abbiamo bisogno di collegarci, di puntare sui collegamenti. La finanziaria e il nuovo aggiornamento del contratto di programma con le ferrovie punterà moltissimo su questo, sui collegamenti ferroviari con gli aeroporti e con i porti, proprio perché queste inefficienze logistiche costano a tutto il sistema italiano. Il problema non è oggi la disponibilità di risorse, diciamo nel medio e lungo periodo, il problema oggi è avere puntare politicamente, come dice questo convegno, e decisamente sul tema della logistica come uno degli strumenti per superare l'inefficienza del paese. Ringrazio anche Paolo Uggè per questa bellissima occasione che dà al nostro Paese di riflessione. Noi spesso riempiamo le pagine dei giornali di commenti su dichiarazioni dei politici, ma non riempiamo le pagine dei giornali degli argomenti di cui il Paese ha realmente bisogno. Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, vicepresidente di Confcommercio. Allora, noi spesso, come diceva il Ministro, riempiamo le pagine dei nostri giornali di cose di cui il Paese non ha bisogno, mentre invece questo Paese, l'Italia, ha bisogno di logistica. È una constatazione molto positiva e adeguata quella che il Ministro fa. Io lo ringrazio per questo riconoscimento, ma la verità vera è che il mondo economico incomincia ad affrontare le questioni della logistica come vero elemento di competitività del nostro paese, o noi ci troveremo tagliati fuori da quelle che sono le opportunità che il mercato globale offre anche al nostro paese, soprattutto alla luce del fatto che sempre più il Mediterraneo diventerà centrale negli spostamenti di merci che vengono dal lontano est, e quindi i nostri porti del Mezzogiorno potrebbero essere veramente porti di accoglienza che lavorano le merci che stanno dai container, dando così occupazione e diventando protagonisti della logistica europea. Certo, il Ministro parlava anche di una mancanza di connessione, quindi gli aeroporti non parlano con la ferrovia, che non parla a sua volta con le strade e così via. Il ruolo dell'autotrasporto come collante fra le modalità, quale potrebbe essere? Lei mi avrà sentito dire più volte che nel nostro paese è mancato da troppo tempo la scelta di politica dei trasporti. Prima bisogna scegliere quale modello si vuole e poi realizzarlo attraverso le infrastrutture necessarie. È ovvio che le tre modalità, che sono quelle che consentono la mobilità delle merci nel nostro paese, che sono la gomma, il ferro e il mare, debbono dialogare tra di loro. Dove? Attraverso la retroportualità, laddove le merci arrivano nei porti, attraverso gli interporti che debbono essere collegati con i sistemi portuali e attraverso delle infrastrutture stradali adeguate che consentano che le merci aumentino la loro velocità commerciale per essere ovviamente più competitivi. Oggi la velocità commerciale nel nostro paese è molto più bassa, almeno di 7-8 km, il che vuol dire molto rispetto alla velocità commerciale esistente mediamente in Europa. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale dedicato al mondo dei trasporti e della logistica di Radio 24. Vi ricordo che questa trasmissione, questa produzione è realizzata in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, quindi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'appuntamento con Container ritorna sabato prossimo alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. We'll be right back.